giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un denunciato per omicidio stradale per la morte del friulano Fabrizio Copetti, trovato agonizzante in strada a Padova. Sulla A4, traffico ai livelli del 2019, ma i tir sono ancora di più, calano le auto, meno incidenti, ma più decessi. Decisa la data di avvio di Gorizia, capitale della cultura. Sarà l'8 febbraio 2025, giorno simbolo per Slovenia e Italia. Alberghi già pieni per la dunata alpina di maggio a Udine, le agenzie cercano stanze anche nelle località turistiche. Cresce a doppia cifra il turismo nel Monfalconese rispetto al pre-pandemia, 90.000 le presenze in più per le crociere. Sciopero domani alla Tirso di Muggia, indetto dalla CGL, altre sigle si sfilano inopportuno nel giorno del tavolo. Al Burlo Garofalo di Trieste arriva la robot che prepara in autonomia i farmaci pediatrici, riducendo la spesa del 30%. La pallanuoto Trieste conquista le semifinali di Eurocup, oltre 800 persone ieri sera alla Bruno Bianchi. Vittozzi subito d'argento ai mondiali di biathlon, la Sappadina sul secondo gradino del podio con la staffetta mista. 7:19 minuti di giovedì 9 febbraio, buongiorno da Daniele Lettige e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è sereno sulla regione, alle 6 c'erano 5 decimi di grado sopra lo zero a Trieste, vento 40 km orari da est-nord-est, bora con raffiche che hanno raggiunto gli 82 km orari. A Udine Pordenone meno 2 gradi e mezzo, a Gorizia 5 decimi di grado sopra lo zero, a Tolmezzo meno 4 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra e sul Piancavallo meno 10 gradi, a Tarvisio meno 7, a Sappada meno 14 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan meno 12 e mezzo, su Lussari meno 14 gradi e 5 decimi, sulla costa Lignano e Grado un grado positivo. Ed ecco le previsioni per oggi. Cielo sereno su tutta la regione. Al mattino soffierà bora da sostenuta a forte sulla costa, specie sul Carso e a Trieste, moderata o sostenuta nelle zone orientali. Bora in calo nel corso della giornata. Potrà ancora soffiare bora moderata o vento da nord-est moderato in pianura. E sarà ancora freddo al mattino. È stato individuato il presunto responsabile della morte del bancario friulano, trovato agonizzante nella tarda serata di lunedì a Padova. Il servizio di apertura è di Arianna Garavaglia della TGR del Veneto. È arrivata una svolta nel caso di Fabrizio Copetti. L'uomo trovato agonizzante per strada a Padova è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. È stato identificato un automobilista di 58 anni residente a Padova. È sospettato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Sotto sequestro la sua auto, che aveva danni visibili sulla carrozzeria. Fondamentale è l'esame, da parte della Polizia Stradale, delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza delle strade vicine a Via Vanzo, dove il bancario era stato ritrovato ferito. Copetti, 54 anni, era originario della provincia di Udine. Aveva fatto carriera in banca, prima nel gruppo Intesa San Paolo, poi in Unicredit. Si era trasferito a Padova 16 anni fa, viveva nel quartiere Arcella con il compagno. La morte di Copetti risale allo scorso lunedì. Erano le 19:30 quando viene visto da un passante che chiama il 118. In ospedale viene anche operato, ma l'intervento per ridurre l'emorragia non riesce a salvargli la vita. Troppo gravi le ferite. Muore dopo 2 ore. Il bancario lavorava in zona stanga. Probabilmente quando è rimasto ferito stava rientrando a casa a piedi. Era già buio. La pista del pirata della strada era sembrata da subito una delle più accreditate, anche se non era stata esclusa l'aggressione. La procura ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia sul corpo. Aumentano i camion, calano le macchine, ma anche gli incidenti. Così sull'autostrada A4 tornata ai livelli di traffico di prima della pandemia e nei dati di Autovie anche un'analisi del rapporto tra gli incidenti e i lavori della terza corsia. Il traffico sulle autostrade della rete di Autovie Venete è ormai tornato ai livelli di prima della pandemia. Lo rilevano i dati di Autovie, che hanno messo a confronto il 2022 con il 2019, l'anno precedente al coronavirus. C'è stato un cambio nella composizione del traffico, sono aumentati del quasi 5% i mezzi pesanti, mentre si è verificato un calo del 2,40% dei veicoli leggeri. Nel complesso gli incidenti sono diminuiti, sono stati 558 nel 2022 contro i 615 del 2019 e la gran parte ha coinvolto mezzi pesanti. È però aumentato nel 2022 il numero di incidenti mortali. Sono stati 14 contro gli 11 del 2019, con 24 vittime, tra cui ci sono i 7 viaggiatori, del pulmino che portava in carne a un gruppo di ragazzi disabili, schiantatosi contro un camion lo scorso ottobre sulla A4. Autovie Venete si sofferma sui possibili legami tra gli incidenti e il cantiere per la costruzione della terza corsia dell'A4, più volte indicato dai viaggiatori come causa di difficoltà alla guida. Nel tratto dell'autostrada già a tre corsie l'incidentalità diminuisce. Gli incidenti sono in calo anche nel tratto del cantiere, dove automobilisti e camionisti prestano molta attenzione, maggiore rispetto al passato. È nel tratto in prossimità del cantiere che si sono verificate e si verificano ancora problematicità legate agli incidenti. Terza corsia a parte, mai dimenticare, precisa Autovie, il ruolo delle distrazioni come causa di incidenti, mancata distanza di sicurezza, eccesso di velocità e soprattutto l'utilizzo dei dispositivi elettronici alla guida. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora la dunata degli alpini in programma Udine dall'11 al 14 maggio. Gli alberghi sono già tutti prenotati e si guarda fuori dal capoluogo anche nelle località balneari per le quali l'evento potrebbe significare un'occasione per anticipare la stagione. Chiamavo per sapere se avete disponibilità per i giorni della dunata degli alpini dall'11 al 14 maggio. No, purtroppo no, siamo già al completo. Al completo siamo dal 2020. Sì, da un anno siamo già impegnato tutto. Questa è la situazione a meno di 100 giorni dalla dunata nazionale alpini di Udine. Abbiamo opzionato tutto quello che potevamo opzionare ed è quasi tutto pieno, ci dice l'agenzia Viaggi incaricata dall'ANA in regione dell'evento. Corrado Liani, gestore dell'agenzia Viaggi. Cerchiamo di collocarli dappertutto, nel senso che tutte le disponibilità sono assolutamente necessarie, perché stiamo lavorando appunto da Sacile a Trieste, da Tarvisio a Lignano. Esaurite le disponibilità in regione, si guarderà anche oltre confine, in Veneto e in Slovenia. Qualcosa si trova ancora in bed and breakfast, ma a parecchi chilometri dal capoluogo friulano, dove nella vecchia sede della prefettura si sta allestendo in questi giorni il quartier generale dell'organizzazione. Sono attese oltre 500.000 persone. L'ANA di Udine sta finalizzando la mappa dell'accoglienza diffusa, campi per tende, camper e palestre. In molti si organizzano privatamente, da parenti o vecchi compagni di Naia. Ci sono tantissime occasioni culturali che noi stiamo ricamando con gli esperti storico-militari per poter proporre ai gruppi, gli individuali che parteciperanno alla dunata. Il fatto di essere a metà maggio permetterà alle località balneari di anticipare le aperture e quindi appunto il soggiorno potrà essere anche interessante non solo per gli alpini ma anche per le loro famiglie. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. 2022, anno record per il turismo in Friuli Venezia Giulia e per Monfalcone, che ha assistito a una crescita delle presenze turistiche del 13,2% rispetto al pre-pandemia. Lo ha riferito l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini nel municipio della Città dei Cantieri, dove ha incontrato il sindaco Anna Maria Cisint e l'assessore Luca Fasan. Nel corso dell'anno, le presenze a Monfalcone e nell'area che comprende il Carso e il litorale hanno superato quota 231.000, percentuale in crescita anche sul fronte degli arrivi, che hanno sfiorato i 54.000. Tra questi un balzo di oltre il 10% è segnato da turisti italiani, incrementato di oltre il 15% anche il numero dei visitatori stranieri, con i maggiori arrivi da Germania, Austria, Polonia. Quasi 14.000 le notti negli alberghi della città di turisti provenienti dall'estero, oltre 92.000 i pernottamenti di italiani. Oltre 90.000 poi le presenze legate al flusso delle navi da crociera. Sulle terme di Monfalcone Bini ha annunciato che entro fine febbraio verrà riaperta l'area delle piscine, sottolineata anche la necessità di ampliare l'offerta ricettiva di qualità sul territorio. Il mondo del lavoro, la gestione della crisi occupazionale della Tirso, l'azienda tessile che negli scorsi giorni non ha rinnovato il contratto a 47 lavori somministrati, fa registrare una serie di prese di posizione sindacali. La CGIL ha proclamato uno sciopero di 8 ore con un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento per dare una risposta, dice una nota del sindacato, alla preoccupante mancanza di certezze per il futuro dello stabilimento di Muggia. Nel corso del pomeriggio, come confermato dall'assessore regionale Alessia Rosolen, ci sarà un tavolo a cui parteciperà parteciperanno, oltre all'assessore, proprietà, sindacati e anche il sindaco di Muggia, Paolo Polidori. Il segretario regionale della UILTEC, Andrea Rizzo, per ora valuterà quanto scaturirà dall'incontro in regione. Sullo sciopero annunciato dalla CGIL anche una nota della CONFSAL, sindacato di maggioranza nello stabilimento tessile muggesano, che rileva la totale intempestività, si legge, di uno sciopero indetto proprio per la stessa giornata in cui, su richiesta dei sindacati, si terrà in regione un tavolo urgente sulla situazione della Tirso. È stata annunciata a Gorizia e Nova Gorizia la data dell'inaugurazione dell'evento Capitale Europea della Cultura. Sentiamo. Una data simbolo per la Slovenia. L'8 febbraio si celebra infatti la Giornata Nazionale della Cultura, poiché è l'anniversario della morte del poeta Franz Prešeren, avvenuta nel 1849. Nello stesso giorno, ma del 1888, nasceva invece il poeta italiano Giuseppe Ungaretti, che combatté nella Prima Guerra Mondiale proprio sul Carso Goriziano. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, e l'assessore regionale alla cultura, Tiziana Gibelli, hanno sottolineato dunque che la capitale europea della cultura prenderà avvio proprio nel segno della poesia. Il ministro della cultura Gennaro San Giuliano, in collegamento da Roma contemporaneamente alla collega slovena Asta Vrečko da Lubiana, ha ripercorso il complesso intreccio storico delle due città e dei due paesi, che con questa programmazione culturale condivisa diventano un modello per l'Europa comunitaria. La direttrice del gruppo europeo di cooperazione territoriale, Romina Cocina. Tutto il territorio ora comincia a lavorare, tutto il territorio vuol dire non solo Nova Gorizia e Gorizia, in tutto l'Isontino abbiamo coinvolto tutti i comuni nelle precedenti settimane, ma anche tutta la regione. Il ministro ha anche annunciato per il prossimo 17 febbraio un incontro con il sindaco di Gorizia e l'assessore regionale alla cultura proprio su Go 2025, il sindaco Rodolfo Ziberna. Stiamo correndo, non so quanti siano davvero consapevoli che non stiamo pensando soltanto di realizzare un evento, sebbene duri un anno, ma stiamo cambiando davvero la storia e i rapporti tra Gorizia e Nova Gorizia e tra Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Gorizia, Maurizio Merva, TGR Friuli Venezia Giulia. La finanza, l'economia, il consiglio di amministrazione di Sparkasse, presieduto da Gerhard Brandstetter, e il consiglio di amministrazione di Civibank, presieduto da Alberta Gervasio, hanno approvato i risultati preliminari 2022. La capogruppo Sparkasse chiude con un utile a livello consolidato di gruppo di 175 milioni di euro e a livello individuale di oltre 74 milioni di euro. Il risultato di Civibank è invece influenzato da componenti straordinarie legate all'integrazione e chiude con una perdita netta di 33 milioni 800 mila euro. La situazione patrimoniale della banca permane solida, fa sapere l'istituto. Il totale ricavi al netto degli effetti dell'operazione di cessione e cartolarizzazione di un portafoglio di crediti deteriorati si attesta a 140 milioni 300 mila euro, con una crescita del 15,9%. L'incentivazione all'esodo inoltre del valore di quasi 6 milioni e mezzo di euro permetterà a più di 50 dipendenti il prepensionamento e l'assunzione di 25 nuove risorse. Passiamo alla politica. Oggi in Consiglio regionale la sesta commissione, dalle 10 in poi, completerà i lavori iniziati martedì con l'esame del DDL 193 in materia di riforma delle leggi sull'immigrazione. Alcuni appuntamenti politici. Moretto Zocchi è il titolo dell'incontro pubblico che si terrà alle 18 a Porcia, al casello di guardia in via dei Pellegrini. La consigliera regionale Chiara Daggiao del PD intervisterà il candidato presidente della coalizione di centrosinistra alle prossime regionali del 2 e 3 aprile. Nel pomeriggio l'incontro con alcune realtà del territorio, tra cui cooperative sociali e rappresentanze sindacali di Electrolux. Riprendiamoci il comune. A Udine, alla birreria sociale di Viale Vatt, la presentazione della campagna nazionale di Attac Italia per due proposte di legge sulla riforma della finanza locale, con il pareggio di bilancio finanziario sostituito dal pareggio di bilancio sociale e la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti per trasformarla in ente di diritto pubblico decentrato territorialmente. Inizio alle 19.30. Un appuntamento che riguarda la sanità, organizzato dal gruppo consiliare Civica FVG, i diritti delle persone con fibromialgia in Friuli Venezia Giulia. A che punto siamo? Se ne parla alle 10.30 nel Palazzo della Regione di Via Sabbadini a Udine. L'ospedale Burlo Garofalo di Trieste sarà il primo ospedale pediatrico italiano dotato di un robot che prepara i farmaci per neonati e bambini. Arriverà a luglio, costa 500.000 euro e l'acquisto è finanziato dalla Regione. I farmaci sterili da infusione per neonati e bambini si preparano a mano negli ospedali, aprendo le confezioni per adulti e buttando via il prodotto in più. Grazie a 15 anni di studi di un'impresa marchigiana e in collaborazione con gli ospedali riuniti Torrette di Ancona, oggi esiste un robot che prepara in totale autonomia gli antibiotici e gli altri farmaci, riducendo la spesa del 30% e permettendo al personale sanitario di avere più tempo per i pazienti. Il Burlo Garofalo è il primo ospedale pediatrico italiano ad averlo acquistato grazie ai fondi stanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Arriverà quest'estate. Il pediatra Gabriele Conte, presidente della Fondazione Burlo Garofalo. Mi trovo ad avere a che fare con dei pazienti di peso estremamente basso, come un sacchetto, una confezione di zucchero. Ecco, questo è un macchinario che ha un'elevata precisione e permette l'allestimento di farmaci che vanno dal neonatino estremamente prematuro di 500 grammi all'adolescente di 1,90 m e 70 kg. L'importanza di questo strumento sta proprio nel controllo qualità. Un traguardo importante per la Fondazione Burlo Garofalo, nata 5 anni fa con lo scopo di raccogliere fondi per progetti a favore dell'istituto e dei bimbi di tutta la regione. Questo robot sarà messo a disposizione anche di altri ospedali? Mi farebbe piacere, no, come cittadino del Friuli Venezia Giulia, essere un pochino, molto spesso siamo stati precursori di tante cose, poter essere quelli che danno il via a questa iniziativa. Perché no? Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia supera la sufficienza nel monitoraggio del Ministero della Salute sui livelli essenziali di assistenza che indicano le prestazioni e i servizi che il servizio sanitario è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro il pagamento di ticket, come i servizi di pronto soccorso, i trapianti o gli screening tumorali. I dati appena diffusi riguardano il 2020, anno dello scoppio della pandemia. Insieme ad altre 11 regioni, il Friuli Venezia Giulia ha ottenuto un punteggio superiore a 60 la sufficienza in tutte e tre le macro aree che riguardano la prevenzione, l'assistenza territoriale e quella ospedaliera. Nella prevenzione il punteggio è stato di 75, nell'assistenza ospedaliera 74, in quella distrettuale 80. Diverse le criticità dovute alla pandemia nell'area ospedaliera hanno subito un peggioramento screening e vaccinazioni. Ovunque si è registrato anche un aumento dei tempi nell'area emergenza-urgenza. Sono stati consegnati nella sede della Protezione Civile Regionale 215 defibrillatori automatici esterni, DAE, a tutti i gruppi comunali. Un progetto nato nel 2020 che ha previsto anche la formazione specifica di 566 volontari per il conseguimento del necessario patentino per l'utilizzo del dispositivo. Sono stati investiti 900.000 euro, compresa la formazione delle persone che hanno ottenuto il patentino. I DAE diventeranno a tutti gli effetti parte della strumentazione delle squadre comunali di protezione civile. A ogni uscita il defibrillatore sarà portato al seguito per cardioprotezione sia dei volontari sia, nel caso si rendesse necessario, della popolazione. E ora a Ravedis, dove grazie a un intervento del Ministero delle Infrastrutture sono iniziati i lavori propedeutici al completamento della diga. Consentiranno l'atteso e quanto mai necessario completamento definitivo della diga di Ravedis i lavori di sistemazione delle paratoie di scarico appena iniziati in Valcellina e che proseguiranno sino al 2024. L'intervento da quasi 4 milioni di euro finanziato dal Ministero delle Infrastrutture permetterà all'invaso di funzionare a pieno regime. Attualmente infatti lavora, per quanto concerne gli scopi irrigui, a circa un terzo della sua capacità, cioè 8 milioni di metri cubi. Entrare nella completa operatività significa mettere a disposizione degli agricoltori e delle comunità l'intera capacità di invaso da 22 milioni di metri cubi, aumentando quindi la riserva idrica per i periodi di siccità. Una vera svolta per il presidente del consorzio di bonifica Cellina Meduna, Walter Colussi, specie dopo un'annata orribile come quella appena conclusa. La siccità della scorsa estate aveva addirittura costretto al razionamento dell'acqua ai soci e con una carenza di precipitazioni che prosegue ancora oggi. Con Ravedis al 100% delle potenzialità, dice Colussi, potremo stare decisamente più sereni per il futuro. I lavori consistono nel rinforzamento delle barriere in acciaio che permettono lo scarico di fondo del lago e nel potenziamento del grande impianto di movimentazione che solleva e abbassa le paratoie. Il cantiere proseguirà fino all'inizio della stagione irrigua ad aprile e riprenderà al suo termine per concludersi il prossimo anno. Montereale Valcellina, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Più efficienza nell'erogazione del servizio idrico integrato nella provincia di Udine è spinta verso la nascita di una società multi-utility che gestisca l'acqua e i rifiuti. È il contenuto dell'accordo vincolante tra CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A., sottoscritto a Udine, che dà avvio all'integrazione societaria con effetti a partire dal 1 luglio 2023. L'accordo prevede il conferimento del 51% della società Poiana in CAFC S.p.A. e l'ingresso nella compagine azionaria di quest'ultima di 12 nuovi soci, raggiungendo il numero complessivo di 136. Il servizio idrico integrato del territorio del Cividalese e Manzanese continuerà ad essere svolto dall'acquedotto Poiana e per gli utenti di fatto non ci saranno cambiamenti, ma nel frattempo si inizieranno ad attuare politiche di gestione comuni. Alla Camera dei Deputati a Roma ieri è stato proiettato il docufilm Ricordare e portare al cuore, produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia a cura di Paolo Valerio, un lavoro nato in piena pandemia con intento didattico per portare ai più giovani la testimonianza dei tragici eventi dell'esodo. Sentiamo Valerio. L'idea di questo docufilm è nata nel 2021 durante il periodo del lockdown. I teatri erano chiusi e con la compagnia del Teatro Stabile abbiamo lavorato a questo docufilm che in parte è estratto da un lavoro mio precedente, un lavoro teatrale che si intitolava Per non dimenticare, che avevo scritto per il Teatro Stabile di Verona. Questo invece è diventato un docufilm fortemente legato alla città di Trieste, in particolare ai luoghi simbolo delle vicende, quindi abbiamo girato la foiba di Basovizza, al centro raccolta profughi di Patriciano e a Magazzino 18. Questo testo ripercorre, ahimè, la tragedia non raccontata. Noi abbiamo voluto ripercorrere questo doloroso silenzio partendo da alcune testimonianze. Ecco, il film è stato proiettato in molte scuole. Qual è stato l'impatto che ha avuto sui ragazzi? Devo dire che è stato un bellissimo momento a questo incontro che abbiamo avuto presenziato dal presidente Fontana e dal presidente Federica. Ecco, c'erano molte scuole e scuole che venivano da Lucca, venivano da Gorizia, da Bologna, da molte città d'Italia, tutti si sono ritrovati a Roma perché sono scuole premiate per dei concorsi legati alla giornata del ricordo. Questo video, questo docufilm nasce proprio con questo intento didattico, è dedicato in particolare alle scuole per raccontare questa storia dimenticata. Proprio in occasione del giorno del ricordo delle vittime delle foibe dell'esodo istriano Giuliano e Dalmata, alle 17.30 nella sede del Civico Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata di Trieste verrà inaugurata la mostra In esilio, atmosfere e propagande diverse. E sempre a Trieste ritorna in scena questa sera, 10 anni dopo il debutto, Magazzino 18, lo spettacolo di Simone Cristicchi dedicato all'esodo, accompagnato per questa edizione speciale dall'orchestra della Fondazione Teatro Verdi di Trieste al Teatro Rossetti dalle 20.30 in replica fino a domenica. In occasione dell'anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ultimo questore di Fiume deceduto nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945, questa mattina alle 10 il questore di Trieste Pietro Signoriello parteciperà in Androna del Pozzo alla piantumazione di un albero in sua memoria, a cui seguirà un momento di commemorazione. Ora due appuntamenti con gli spettacoli. Un innovativo allestimento dei Turks dal Friuli di Pierpaolo Pasolini, opera giovanile del poeta ambientata nel Friuli della fine del 400, che propone come colonna sonora una commissione tra musica del Rinascimento, musica elettronica e manipolazione elettroacustica. È quella curata dall'associazione Epicantica che andrà in scena questa sera alle 20.30 al Teatro Miela di Trieste. Iniziano stasera le anteprime della 16ª edizione del Pordenone Docs Fest. Il primo appuntamento è con Se fate i bravi, dedicato al G8 di Genova 2001, alla presenza dei registi Daniele Gaglianone e Stefano Collizzolli. Alle 20.45 a Cinema Zero a Pordenone. E ora la pagina dello sport. La Pallanuoto Trieste si qualifica per la semifinale di Eurocup. I giuliani superano 11-10 alla piscina Bianchi gli ungheresi dello Szolnoki Doszak, sconfitti di misura anche nel match d'andata. Sostenuti da un infiammato pubblico, gli alabardati hanno giocato un ottimo match, trascinati dal quartetto Petronium, Ladossic, Mezzaroba, Podgornik, dal portiere Oliva. È andata esattamente come mi aspettavo, ha detto al termine l'allenatore Daniele Bettini. Una partita di grande intensità contro un avversario forte che ha fatto di tutto per superarci. Noi però, ha detto Bettini, abbiamo dimostrato di essere un po' più forti di loro. Trieste ora attende il sorteggio dell'avversaria per le semifinali. In lizza ci sono i greci del Panionios, gli ungheresi del Vasas e la Rarinantes Savona, che saranno i prossimi avversari dei triestini sabato in campionato. Medaglia d'argento per l'Italia ieri nella gara di apertura dei mondiali di biathlon di Oberhof in Germania. La staffetta mista, che ha visto schierati Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel, è arrivata seconda, appunto. La Sappadina ha aperto con una medaglia la rassegna iridata, nella quale è una tra le atlete più forti. L'Italia è stata battuta solo dai grandi favoriti della Norvegia. La Vittozzi ha iniziato senza dare tutto nel primo giro, ha chiuso la serie di tiri a terra senza errori e si è ritrovata al comando, posizione mantenuta fino al secondo poligono. Nel tiro a terra ha utilizzato una ricarica, scivolando al secondo posto, a pochi secondi dalla leader di coppa, la francese Simon. Al cambio, la Sappadina era staccata di una decina di secondi dal primo posto. Nella frazione successiva, Dorothea Wierer ha preso il comando della gara, Didier Bionaz si è mantenuto in zona medaglia, cambiando al terzo posto, e Giacomel ha condotto la gara per metà frazione, arrendendosi solo al biatleta più forte del mondo, il norvegese Boe. Vittozzi sarà di nuovo in pista domani con la sprint. Nel volley, vittorie nette per le squadre friulane nel turno infrasettimanale. Per la 2 di pallavolo femminile, alla Tisana la CDA Talmasson ha battuto per 3-7-0 il Soverato. L'Itas Ceccarelli Martignacco in trasferta ha vinto sempre per 3-0 contro l'Antea Vicenza. E per la pallamano, dopo la sconfitta di sabato scorso a Belluno, ieri sera Trieste ha vinto 22-18 a Palazzolo nel recupero della quarta giornata di ritorno della Serie A2. Con questa vittoria Trieste consolida il secondo posto in classifica con 28 punti dietro alla capolista Appiano. Prossimo impegno per gli alabardati sabato in casa contro il Dosso Buono. E oggi a Udine la quinta edizione del meeting di salto in alto, ideato da Alessandro Talotti, l'atleta friulano scomparso nel 2021. Si è aperta con un messaggio di saluto di Silvia Stabili, compagna di Alessandro Talotti, il saltatore friulano, la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di Udine Jump Development, il meeting d'Italia di salto in alto, ideato da Talotti. Programmato al Pala Indoor Ovidio Bernes di Paderno alle porte di Udine, alla presentazione del meeting hanno preso parte le atlete e gli atleti che compongono la rosa dei top jumper. Elena Vallortigara, bronzo ai mondiali del 2022. Sarà una bella gara, sono contenta, spero di fare, insomma, di migliorarmi rispetto alla prima uscita stagionale, e sicuramente gli stimoli ci sono, il meeting è bello e spero di rendere onore, insomma, alla manifestazione. Mario Gasparetto, organizzatore. Sarà un'edizione, crediamo, molto importante, in quanto abbiamo la campionessa del mondo di Eugene di salto in alto, la australiana Patterson. Il presidente del CONI del Friuli Venezia Giulia, Giorgio Brandolin. Questa era un'idea di Talotti, del mio delegato, rifar sorgere la scuola del salto in alto nell'atletica qui a Udine, e la presenza di questi grandi atleti ne è la dimostrazione di questa brillante idea. Il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera del Friuli Venezia Giulia, Massimo Di Giorgio. Questo è, diciamo, il meeting più importante che si svolge in Italia durante il periodo invernale ed è il secondo per importanza anche di tutta la stagione. Non poteva mancare Javier Sotomayor, campione olimpico e iridato cubano, recordman mondiale di salto in alto, per onorare ancora la sua amicizia con Alessandro. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Iniziamo la nostra rassegna stampa con il Piccolo di Trieste, che apre con una fotonotizia sulla corsa al selfie con il monumento al Tallero di Maria Teresa d'Austria, appena inaugurato. A centropagina il titolo forte, i condomini in ostaggio, a Trieste una sessantina di cantieri in stallo, più di 700 famiglie nell'incertezza. Sempre a centropagina, un'altra fotonotizia più piccola è sul robot farmacista del Burlo Garofalo. C'è poi un richiamo al lavoro, tavolo regionale per la Tirso, sciopero della CGIL e presidio, e uno alla vittoria della Pallanuoto Trieste in Eurocup. Infine, due altri richiami alle celebrazioni del giorno del ricordo. A Basovizza la russa omaggia le vittime di Foibe ed Esodo e al Teatro Rossetti torna da stasera Cristicchi con Magazzino 18. Ai cantieri bloccati è dedicata anche l'apertura delle pagine di Cronaca Cittadina. Stretta sul credito e mancanza di liquidità, una sessantina le opere in stand-by. Una bomber, le 10 prove, il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine, 11 indagati e tanti casi già in prescrizione. La fotonotizia per l'investimento di Padova, in cui ha perso la vita Fabrizio Copetti, individuato l'investitore, si legge. Di spalla il maxi progetto per San Domenico, 115 appartamenti, e se ne parla nella Cronaca Cittadina. Titolo anche per l'inchiesta della Finanza sulle industrie cartarie, ne abbiamo parlato ieri, e per l'incidente ad Aquileia che ieri pomeriggio ha coinvolto un minore caduto mentre si allenava con la moto e ricoverato in gravi condizioni. In alto gli aiuti alla Turchia devastata dal sisma, il Friuli Venezia Giulia invierà medicinali, accanto alla minaccia più grave per le aziende, quella informatica. In taglio basso l'argento di Lisa Vittozzi nella staffetta mondiale di biathlon. Sul Gazzettino, bancario ucciso a Padova, preso il pirata. Poi una bomber, parla un indagato, temo le prove inquinate, dice un 65enne di Casarsa. Di spalla medici, quasi 7 milioni di tesoretto per pagare le ore, basta usare, si legge, le risorse aggiuntive. Sotto richiamo per l'incendio di un tetto, ieri in montagna, in basso ancora l'argento nella staffetta biathlon di Lisa Vittozzi, nella fotonotizia settore carta, inchiesta frode sull'IVA. L'edizione di Gorizia del Piccolo si apre con una fotonotizia sulla bonifica dell'amianto alla Nazario Sauro. Il titolo di centropagina è invece su Nuova Gorizia, Gorizia 2025. Partenza fissata, l'inaugurazione si terrà l'8 febbraio 2025 nel segno dei poeti Ungaretti e Prešíren. Un'altra fotonotizia più piccola è dedicata al turismo in crescita del 19%. Spazio infine è un richiamo di cronaca. Controllore chiede il biglietto, viene spinto giù dal bus. Sempre sull'inaugurazione degli eventi della capitale europea della cultura si aprono le pagine della cronaca locale di Gorizia, mentre quelle di Monfalcone titolano sul turismo. Croceristica, litorale e marine. In città accolti 231.000 turisti. Nel 2022 la svolta con un più 19% rispetto all'anno precedente, oltre 13.000 i pernottamenti. Titolo di apertura del Gazzettino di Pordenone sul timore del pensionato di Casarsa, nuovamente indagato per il caso una bomber. Nella fotonotizia poi una vignetta per raccontare le difficoltà della sanità regionale, fuga dei medici a rischio ginecologia a San Vito. Ancora la cronaca, accanto due minorenni, gli aggressori di via Mazzini, mascella spaccata a un ragazzo di 17 anni, ne abbiamo riferito ieri. Di spalla a Sacile, il killer dei gatti compra il veleno a supermercato e sotto torna a casa, sempre a Sacile, la piastrina militare perduta del 1914 e trovata a fianco della Pontebana. Sul Messaggero Veneto, rilancio del Bronx, un intervento da 20 milioni. Nella fotonotizia, più in alto, dal nastro isolante alle scatolette, le 10 prove contro una bomber. Nella colonna di cronaca, due minorenni indagati per un'aggressione in centro e l'inchiesta sulle criptovalute, truffa bis ai danni dei raggirati.